Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Prima puntata di dicembre con il mondo della scuola, Mirko Cavallini in studio, Eddie Dai c'è la parte tecnica. Ancora per parlare di tecnologia applicata alla scuola, in particolare oggi parliamo dei libri scolastici, libri di testo in versione digitale. Ospite anche questa settimana per parlarne del bene e del male di questa novità, la professoressa Maria Luisa Furlan, ben trovata. Grazie. Dunque, il bene e il male, c'è questa normativa che prevede dal settembre 2014, quindi fra meno di un anno, quindi dall'anno scolastico 2014-2015, che i libri di testo tradizionali che conosciamo con eventuali allegati, ma siano anche in la nuova adozione con la versione digitale. Sì, anche con la versione digitale o mista, cioè quindi comunque deve essere disponibile, se un genitore la chiede, la versione scaricabile da internet oppure tramite CD o comunque insomma che possa essere letta su altri supporti. È veramente non, appunto, non solo digitale, perché il Ministero individua tre tipologie di libri di testo: quelli in versione totalmente digitale, oppure un libro in versione mista che abbia magari un libro cartaceo e una parte di contenuti aggiuntivi digitali integrativi, o un libro in versione mista composto da un libro digitale e dei contenuti aggiuntivi digitali. Cioè distingue nel libro di testo quello che è la parte di spiegazione, di manuale eccetera, dalla parte di esercizi. Può essere che la parte di manuale sia in cartaceo e la parte degli esercizi, dei contenuti aggiuntivi, sia in digitale. Ecco, questo è un po' quello che è previsto. L'idea ovviamente è che così è più facile che cambiando le edizioni eccetera non si butti via tutto il testo, ma si modifichi solo una certa parte, per esempio in questo caso. Per esempio, ed è interessante, insomma, dal punto di vista della spesa potrebbe essere interessante, perché lì dove ad esempio tra un'edizione e l'altra c'è solo una paginetta di differenza, basta scaricare eventualmente la versione nuova ed avere, immagino e spero, con un prezzo contenuto e adeguato la versione nuova senza dover comprare un libro nuovo. Sì, beh, qui hai già messo il dito su una piaga molto grossa. Sì, sì. Perché se qualche genitore ha cominciato ad acquistare dei libri digitali, si è reso conto, oppure basta sfogliare i cataloghi delle case editrici eccetera, si è reso conto che mentre per esempio se io voglio acquistare, che ne so, la Divina Commedia in formato digitale mi costa molto meno presumibilmente di quanto potrebbe costare un'edizione normale, standard, scolastica in formato cartaceo, perché tutto sommato è un testo classico e non cambia, i libri di testo scolastici anche in versione digitale hanno un costo quasi uguale a quello del cartaceo. Inoltre hanno con il libro viene, o con l'acquisto viene dato un codice di attivazione. Questo codice non è eterno come potrebbe essere, non so, il libro cartaceo. Io lo compro e me lo posso tenere. E quello rimane. Certo, quello rimane, lo posso tenere, lo posso passare al fratello più piccolo, così via. Invece in questo caso il codice generalmente ha una durata che può essere 12 mesi, 18 mesi, magari estendibile, per carità. Se uno viene bocciato, ad esempio. Sì, se un ragazzo deve ripetere l'anno, allora il docente lo fa presente al rappresentante, oppure comunque la famiglia lo fa presente al rappresentante, però ci vuole comunque una verifica presso la scuola. Cioè, insomma, non è poi così facile. E sicuramente non è rivendibile, per esempio, oppure è passabile al fratello più piccolo, perché dopo un certo periodo il codice... Faccio il cattivo, perché bisogna venderne un'altra copia. Sì, è anche vero, le case editrici dicono che c'è molto lavoro dietro a un libro di testo, è vero, quindi questo può essere, però è anche vero che una parte dei costi vanno anche nella distribuzione, in questo caso insomma, a parte la promozione, per il resto si possono distribuire via internet e è molto poco costoso questo. Certo, insomma c'è un mondo di affari dietro, come del resto anche dietro i medicinali, ma è un altro capitolo che non tocca la nostra rubrica. Novità dunque dall'anno prossimo 2014-2015 per le nuove adozioni per tutti gli ordini di scuola? Sì, anche se si comincerà per alcune classi in particolare, quindi l'obbligo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della primaria, dalla prima classe della secondaria di primo grado, dalla prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado. A seconda dei cicli in cui a seconda di dei studio. Cicli, insomma. E poi anche è possibile che ci sia una applicazione così comprensiva di eventuali realtà, anche perché e soprattutto adesso con la crisi che reca difficoltà anche a volte alle famiglie, non è sempre detto che i supporti siano tutti adeguati, perché naturalmente libro digitale si risolve presto il problema del peso nello zaino, o perché naturalmente non occorre portarsi dietro grandi tomi, però c'è una questione che riguarda i supporti, dove lo leggo, dove studio con il libro digitale. Eh sì, è un problema tecnologico, come dicevamo anche la settimana scorsa a proposito dell'apprendimento della piattaforma. Appunto, che cosa serve per leggere un libro digitale? Normalmente serve un supporto che legga il libro digitale. Allora può essere un computer, può essere un tablet, può essere anche uno smartphone, può essere un netbook, comunque o appunto un lettore di libro digitale. I supporti non sono tutti uguali, tra l'altro, e quindi questo potrebbe creare anche qualche difficoltà che va prevista nel momento in cui si sceglie supporto anche per i libri digitali. E dalle difficoltà ripartiamo dopo la prima pausa musicale. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Quindi se escludi gli aviatori, falchi, nuvole, gli aerei, aquile, angeli, rimani te. Ed io mi chiedo, ora, che farai? Che nessuno ti verrà a salvare. Complimenti per la vita da campione. Insulti per l'errore di un rigore. E mi sento come chi sa piangere ancora la mia età. E ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto. Ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età. Certo che facile non è mai stato. Osservavo la vita come l'osserva un cieco. Perché ciò che è detto può far male, però ciò che è scritto può ferire per morire. E mi sento come chi sa piangere ancora la mia età. E ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto. Ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età. E che la vita ti riservi ciò che serve, spero. Che piangerai per cose brutte, cose belle, spero. Senza rancore, che le tue paure siano pure. L'allegria mancata poi diventi amore. Anche se è perché solamente il caos della retorica confonde i gesti e le parole, le modifica. E perché Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato, e ciò che dice lui l'ho ascoltato. di notte alla mia età. Di notte alla mia. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Eccoci ancora qui con Maria Luisa Furlan per parlare di tecnologia, in particolare di questo libro digitale che, dicevamo poco fa, ha delle controindicazioni, cioè il formato e il supporto con cui lo si legge. Citavi prima gli smartphone, cioè dei telefoni, fino ai computer portatili, e penso ad esempio alla dimensione dello schermo, cioè è chiaro che una cosa è vedere un numero di telefono, una cosa è leggere un testo. Certo, del resto più piccolo è il supporto, più facile è portarlo con sé, per cui è chiaro che i libri scolastici di solito non sono fatti per girare sui supporti degli smartphone, dei telefoni, però è anche vero che molte volte noi pretendiamo di far stare o far così di leggere dei testi anche su dei supporti che magari non sono proprio molto adatti, per cui la scelta del supporto va anche calcolata, verificata. Non è che perché ho un bel computer con uno schermo bello grande ad alta definizione, risoluzione, eccetera, poi magari necessariamente quello mi agevoli nella lettura. Quindi questo è importante, anche perché i primi libri digitali erano soprattutto diciamo la versione PDF del libro cartaceo, per cui la versione PDF era fatta dalle pagine proprio del libro cartaceo e erano quelli un po' quando veniva venduto il libro con il CD allegato, che poteva essere un CD audio oppure con un CD-ROM con del materiale aggiuntivo, c'erano delle pagine aggiuntive, che l'idea era che qualcuno con il computer le aprisse e poi eventualmente, se gli serviva averle scritte, le stampasse e poi se le studiasse oppure le studiasse dalle computer, però per un uso molto limitato. Naturalmente avere tutto un libro di testo con questo tipo di formato non si adatta allo schermo di un computer o anche di un tablet forse, e quindi questo crea qualche difficoltà. Non posso vedere tutta la pagina, per esempio. Sì, ad esempio questo è un problema, perché il libro generalmente ha un'impostazione verticale, cioè è più alto che largo, mentre il computer è più largo che alto. Infatti, ad esempio, e questo qua è uno degli aspetti, altrimenti devo rimpicciolirlo, mi resta mezza pagina bianca, eccetera, e questo è un primo aspetto. Allora adesso invece i libri hanno cominciato ad avere dei formati anche diversi, però è anche vero che ci sono dei formati che si adattano alla pagina, allo schermo, al supporto, e in questo caso però creano altri problemi. Allora alcuni formati sono standard, sono fatti su uno schermo standard di tablet o di computer e lì non si tocca molto. Questi di solito sono i libri che vengono anche con un piccolo software collegato, che in qualche modo ne permette la lettura e magari a volte anche permette di sottolineare qualcosa, perché non tutti i supporti permettono di farlo, eccetera. Però per esempio se io ho alcuni formati che adattano il testo al supporto, allo schermo, ecco che ragazzi diversi possono avere degli strumenti diversi, degli apparecchi diversi, e quindi naturalmente quello che uno vede da una parte l'altro non lo vede nella stessa pagina. Pagina 15 non è la stessa per tutti. No, infatti, e quindi questo è un altro problema, perché con i ragazzi più grandi magari uno può anche dire andate al capitolo intitolato X e poi al terzo paragrafo, con i più piccoli già i grandi a volte si perdono, figuriamoci più piccoli. Quindi anche questo può essere una ulteriore difficoltà, anche per lo studio. Lo studio ha bisogno di avere un testo, di vedere un testo in qualche modo fisso, comunque che sia sempre quello quando lo riprendo in mano, anche per sia per una memoria visiva, sia proprio per poter organizzare, pare sia una questione anche di organizzazione mentale nostra. Se io ho un testo che, se lo apro a casa sul computer fisso, magari ha un certo tipo di impostazione, e poi magari lo apro su un tablet a scuola e ha un altro tipo di impaginazione, non ci si trova. Non mi ritrovo. Ecco, poi c'è anche un problema tecnico, perché un conto è leggere magari in una stanza illuminata poco o male, questo è un altro discorso, leggere un libro, studiare sulla propria scrivania dove la luce arriva dall'esterno rispetto al libro, altra cosa sono i supporti tecnologici dove la luce arriva dall'interno. Qui c'è anche un problema di salute. Sì, infatti A noi sembra una gran bella novità il fatto di poter avere a che fare con dei libri digitali che si possono leggere su qualsiasi supporto, e di solito subito, io adesso sto pensando, il docente o il genitore pensa, ah sì, così poi possono leggerlo sul computer, sul tablet, che poi sono l'ultima, la penultima moda, adesso non so a cosa vada, ma insomma da un po' di tempo andiamo a scuola tutti col tablet, la scuola digitale 2.0, però questi sono tutti supporti che sono retroilluminati, cioè se io leggo da un computer, è come se io ho la luce negli occhi, la luce è dietro al testo che io leggo, e questo permette di vedere lo schermo anche quando per esempio al buio, oppure anche sul tablet è così, però questo naturalmente può affaticare la vista, soprattutto se io devo leggere, se devo concentrarmi e così via. Non so se agli ascoltatori è mai capitato, però guardare a lungo uno schermo di computer effettivamente affatica la vista notevolmente. Addirittura ci sono delle normative per chi deve lavorare davanti ai computer e ai monitor per tutelare la loro salute, normative europee che prevedono che ogni certo periodo ci sia una pausa. E aggiungo un'altra questione: i libri cartacei non hanno bisogno delle batterie ricaricabili, perché è un altro problema, no? È vero che le batterie durano, possono durare tanto, anche alcune ore, però i supporti, tu qui hai un computer portatile, più lo usi più la batteria si scarica, chiaramente. Sì, o l'elettricità comunque. Esatto, mi viene in mente un libro di Mauro Corona che ipotizza un mondo senza energia. Come faremmo? Ultima pausa e poi ancora insieme. Dal mondo della scuola. No one guessed, no one tried. You Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, puntata tecnologica, una serie di puntate tecnologiche. Stavamo parlando con Maria Luisa Furlan di libro digitale, ebook, come si dice, molti leggono anche romanzi, insomma ne escono in versione anche con questa versione a costi più bassi rispetto alla versione cartacea. E tra l'altro, dal punto di vista tecnologico, gli appositi lettori di ebook sono diversi rispetto, che ne so, ad un computer, ad un tablet. Sì, perché il lettore di ebook è limitato, non fa tutto quello che fa un computer, ma è fatto per leggere un libro digitale, e quindi naturalmente non hanno lo schermo retroilluminato. Possono avere l'inchiostro digitale che quindi evidenzia la scrittura anche in condizioni di luminosità, di luce non ideali, ma hanno comunque bisogno di una fonte di luce esterna, e da questo punto di vista è più simile al libro cartaceo. Certo, sono più simili al libro cartaceo e non affaticano la vista così tanto. Magari poi può dare fastidio il fatto che alcuni, per passare da una pagina all'altra, abbiano una specie di piccolo sfarfallio, bagliore, eccetera. Però al di là di questo, questi servono proprio per poter leggere senza stancarsi, quindi anche leggere a lungo, e quindi anche un libro di testo, un manuale, qualcosa che va letto continuativamente. Considerando poi che, ad esempio, penso ai treni o comunque alle letture in movimento, anche lì di solito i medici sconsigliano di leggere mentre si è in movimento, perché il punto di riferimento dell'occhio, l'occhio magari è concentrato lì, ma intorno c'è altro che si muove, l'occhio comunque lo vede, anche se il cervello è concentrato sulle parole. Certo, noi a volte vorremmo andare oltre anche a quelli che sono i limiti naturali magari che abbiamo, comunque alcuni limiti di cui tener conto. È anche vero però che avere un supporto che permette di leggere dei libri digitali, che sia il lettore ebook piuttosto che il tablet o altro, è molto comodo e pratico. Se io mi sposto da un posto all'altro non devo portarmi dietro tutta una serie di libri. Anche alcuni hanno anche il collegamento tanto internet, anche i lettori stessi di ebook per esempio, e quindi questi permettono di accedere a delle banche dati oppure di scaricare sul lettore una grande quantità di libri, di testi, di dizionari, di enciclopedie, per cui non so il significato di una parola, lo vado a cercare, un riferimento storico, culturale o altro, una piantina di una città o qualsiasi altra cosa insomma mi possa servire, e una carta geografica, e quindi questo diventa anche importante, perché se noi pensiamo abbiamo quasi l'idea che sia necessario tante volte portarci dietro un sacco di cose. Se io penso anche a tanti libri di testo, contengono tante cose, quando poi alla fine umanamente non è possibile affrontarne neanche metà nel corso di un'attività didattica normale. Però siccome l'idea è che ci debba stare dentro di tutto, perché ci possono fare percorsi diversi, in questo modo invece magari con dei libri digitali è chiaro che io posso allora far stare tante cose in un unico lettore, oppure accedere a internet o ad altre fonti nel caso in cui appunto io abbia bisogno di trovare ulteriori informazioni. Mi viene in mente l'esempio dell'Atlante geografico, no? Che è uno dei libri più scomodi da avere, da portare e da utilizzare, perché per forza di cose è grande. Con le mappe di Google ci vuole un attimo. Sì, poi magari basta sperare che siano poi giuste, perché se devi andare a Venezia, un indirizzo di Venezia con una mappa di Google, te lo sconsiglio vivamente. Però questo non è per dire che non funzionano, ma perché a volte ci sono delle realtà un po' difficili in cui, però effettivamente sì, o Google Earth o altre cose del genere. Torniamo all'applicazione di questi libri elettronici nello studio. Io che sono tradizionalista avevo una serie di evidenziatori o di matite colorate diverse a seconda delle cose che studiando volevo appunto memorizzare anche cromaticamente nel mio testo. Con la tecnologia si può, non si può, oppure gli appunti a margine che mi salvarono l'esame di maturità? Questo evidentemente chi ha pensato i libri digitali non sempre ci ha pensato, no? Le case editrici di libri scolastici sono generalmente quelli che hanno un mini software diciamo incorporato, e questo software prevede degli strumenti di scrittura che possano in qualche modo, ad esempio come nel software dei tablet o a volte anche dei computer, permette di evidenziare, quando scrivo in Word posso anche evidenziare delle frasi, quando la tecnologia usare un colore diverso per il carattere, insomma, sì, certo. Naturalmente non posso andare a toccare il libro digitale, però come certi programmi permettono di annotare i file PDF, di scriverci sopra, posso scrivere sopra al libro digitale e poi anche eventualmente cancellare. Però naturalmente una cosa è scrivere con una penna, una matita su un libro cartaceo, e una cosa è scrivere con una tastiera di computer da qualche parte, oppure con se la tecnologia è touchscreen, andare a scrivere con il dito, che ne so, fare una freccia, un riferimento, insomma non è poi così immediato, e questo schematizzare nel margine sicuramente no, è molto difficile insomma, e anche correggere un elaborato eventualmente fatto in questo modo, se gli studenti dovessero mandare magari costruire o completare, compilare qualcosa e poi mandarlo all'insegnante, però quindi per lo studio ecco, anche per questo forse il ministero prevede che ci possano essere dei libri misti con la versione cartacea per il manuale e quella digitale magari per gli esercizi, proprio perché avere della carta sotto mano anche proprio fisicamente aiuta. Aiuta, e poi il passaggio deve essere graduale dal prossimo anno scolastico 2014-2015. Allora noi ringraziamo la professoressa Maria Luisa Furlan per questo lungo ciclo di 4 puntate dedicate a diversi temi, soprattutto tecnologici, ma non solo, e le auguriamo buon lavoro. Grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.